dichiarazione del consigliere aggiunto ha un po' rispecchiato quella che è la composizione della migrazione nella città di Roma, e devo dire che ha anche rispecchiato il livello organizzativo delle comunità di migranti all'interno della metropoli, nel senso che stando alle cifre che arrivano questa mattina sui partecipanti al voto, sicuramente le Filippine e l'area asiatica, quindi Bangladesh in modo particolare, sono state le comunità che maggiormente hanno aderito all'invito del sindaco Veltroni del Comune di Roma a dar vita a questa nuova figura, quindi a mettere in opera questa nuova figura che è quella del consigliere aggiunto. I dati parlano di circa una buona metà di votanti sui 33.000 iscritti, quindi su 33.000 aventi diritto all'interno del Comune di Roma, quindi stiamo parlando di un 50% circa di aventi diritto che si sono presentati alle urne, e già questo è un dato direi abbastanza significativo rispetto a come gli immigrati e diverse comunità hanno inteso questa scommessa elettorale. È chiaro che c'è un po' uno specchio della situazione diciamo dell'immigrazione a Roma, dicevo uno specchio anche del livello organizzativo, perché poi da quello che vediamo, queste sono giusto le prime battute, le comunità più organizzate, quelle che poi hanno avuto anche maggiore capacità anche di organizzarsi la propria campagna elettorale, sono state premiate. Il dato che deve far riflettere è la scarsa affluenza, nel senso che qui stiamo parlando ad esempio nel municipio Roma 11, dove forte è stata la promozione dell'occasione elettorale, abbiamo su 1.551 iscritti 909 votanti, e poi ripeto, insomma, il Comune di Roma un buon 50%. Io penso che è stata persa un'occasione per sicuramente per i municipi, ma anche per le associazioni che si muovono verso i diritti dei migranti, ma anche per quanto riguarda le comunità stesse, per rilanciare il dibattito rispetto ai diritti fondamentali dei migranti, e tra cui anche il diritto di voto pieno alle amministrative. È stata persa un'occasione perché la campagna elettorale è stata gestita un po' sottotono, un po' da tutti direi, a parte le uscite pubblicitarie e propagandistiche molto di vetrina delle varie istituzioni locali, e in realtà le comunità hanno avuto un poco spazio politico, e laddove questo spazio politico è stato offerto non è stato forse sfruttato pienamente. Bisognerebbe interrogarsi sulle ragioni che hanno portato a un vissuto da parte delle comunità così sottotono rispetto invece alle potenzialità che offriva questo appuntamento. L'abbiamo già detto, come municipio noi ci siamo spesi in questa vicenda attivando anche le nostre unità di strada per promuovere l'appuntamento elettorale, per un motivo semplice, ovvero che poteva rappresentare l'occasione da parte delle comunità e delle istituzioni locali per rilanciare il dibattito sui diritti fondamentali dei migranti, e ripeto, per cui il diritto al voto poteva essere l'occasione di massima visibilità per dire che in Italia è una vergogna che cittadini che lavorano e studiano da anni, che sono residenti nel territorio metropolitano e sono assolutamente inseriti nella vita sociale e culturale della città e delle città italiane, non godano di questo diritto, io direi banale, che è un diritto civile e politico fondamentale come quello del voto, quindi di partecipare alla vita istituzionale delle città in cui vivono e producono. Probabilmente se non avviene una spinta in questo momento politico preciso da parte della comunità e delle istituzioni locali verso un avanzamento democratico rispetto ai diritti civili, in modo particolare al diritto di voto, non ne capiteranno altre. Ovviamente noi come municipio, ma penso che sarà anche intenzione di altri municipi e forse anche di forze politiche più sensibili, andremo ancora avanti rispetto a questa nostra battaglia. Non si ferma qui sicuramente l'intenzione di continuare a dare visibilità alla questione del diritto di voto dei migranti, che non è la questione centrale sicuramente. Io penso che oggi all'interno della città di Roma la questione dell'accoglienza, della carenza di politiche di inserimento sociale, una politica per il lavoro riguardo ai migranti manchi in maniera assoluta. Si stanno facendo dei tentativi, ma mi sembra che a fronte anche di un recente periodo di una scarsa forza contrattuale delle comunità rispetto ai diritti fondamentali, nell'agenda politica del Comune di Roma le questioni relative all'accoglienza, all'inserimento sociale dei migranti non siano assolutamente dentro un posizionamento centrale.